io spira veementi, in amare infine lo correventi, a queste materia ci disileventi, si mi disso fuori o de voluto venti, non si vedi proprio viro sapienti, sopra pentra potere sei da fondamenti, solto seguo con parola fuori o lamenti, son peore tramite nunca permanente. meum est cum vivulis, et insecta deci voluntas meas, et qui manem ecvesieret in taberna post vesperam nudos egredietur, et sic denudatus vest clamavi. Sors turbissima! Basta! Basta! Basta! Nostre vite gaudia, absuisti omnia! Basta! Basta!

Oh, oh, oh, floreo, iam amore virginari, oh, oh, tardeo, novos, novos, novos, amor, es poverio, poverio, poverio. Thank you.